Radio Rock FM, sono le 8. Burro e rock and roll. E c'è la vostra colazione rock. La tua colazione rock. La colazione che dà assuefazione. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. E sale la tensione, glielo lecco negli occhi del nostro regista Spadino, che ormai da lunedì sta maneggiando un prezioso vinile del collega Mox Cristadoro che ci ha prestato. Proprio per svegliarvi in questa settimana con la colonna sonora, con il musical Air. E c'è il terrore, ragazzi, io glielo leggo il terrore negli occhi, perché se Mox trova una ditata su quel vinile partono gli alluci, proprio l'Italia secondo me. Spadino è così. Mox io lo conosco da tanti anni, è uno che proprio ha in mente l'affare per tagliare i sigari. Ecco, lui ne ha sempre un paio in tasca, perché a chi gli tocca il vinile male, tac, ci stacca il ditino. Siete pronti? La sveglia suona così. Good morning starshine, the heart say hello. Io la so già quasi tutta. Voi l'avete imparata? Ieri l'ho cantata tutto il giorno. Good morning starshine, the earth says hello. You twinkle above us, we twinkle below. Good morning, starshine, you lead us along, by love and me as we sing our early morning singing song. Lead us to be dimming up in the middle. Early morning singing song. Good morning, starshine. Good morning. The earth says hello. Hello. You twinkle above us, we twinkle below. Good morning, starshine. You lead us along, my love and me as we sing. Riesco a vederle, le radioascoltatrici che accendono la radio sveglia, no? Sono ancora sotto le coperte. E appena parte Good Morning Starshine, saltano sul letto con le coperte sopra, no? Hai capito? E fanno la coreografia. Vorrei anch'io delle coperte qui nello studio di Rock FM. Così metodo Stanislavski, per essere più vicino a chi si sveglia adesso, no? Giustamente. Buona giornata, questa è la 14ª puntata di Pane, Burro e Rock and Roll. È giovedì 20 di settembre. Per chi si fosse sintonizzato solo in questo istante, essendo giovedì daremo i numeri, come facciamo tutti i giorni, ma il giovedì ci facciamo aiutare dal nostro tabaccaio di fiducia Carlo, qui a Milano, per la tripletta del lotto. L'obiettivo è diventare ricchi vincendo una... vincendo i tre numeri. E poi si divide, ovviamente. Vediamo. Intanto continuate in tanti a contattarci. Saluti a Genova, dove si lamentano un po' del segnale strano. Un amico, il nostro gruppo d'ascolto Lavascale, appoggia l'idea di un altro radioascoltatore di andare in pensione subito e di iniziare a lavorare a 50 anni. Sembrava un'ottima idea. È bello svegliarsi con voi e con il campionario di perle musicale. Davvero San Gennaro liquefatti delle... Aspetta, cos'è? Siete i San Gennaro liquefatti delle mie giornate. Angelica, attenzione, che si va sulla blasfemia. E già ne abbiamo di problemi qui a Rock FM. Ultimo saluto a Mister Astice. Sappi che per il 30 settembre sto facendo il possibile per venire su a Milano da Imola per le patenti davvero rocker. Non è che mi puoi mandare un jet privato che faccio prima, guarda, chiediamo subito a Frick se non usa il suo. certamente potremo prestartelo. Intanto eccoli qua che arrivano Talking Heads, Once in a Lifetime. Dubi dubi. You may find yourself living in a shotgun shack, and you may find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, vano tentativo di portare contenuti a queste due ore radiofoniche altrimenti gettate nelle ortiche, l'ausilio di nuovo prezioso, concreto, fondamentale di Roberto Fricantoni. Lei mi lusinga, DJ Ariele. A volte sì. Ah, lo ammette. Soprattutto dunque, quando lei mi deve dei soldi. Lo fa faccio spesso apposta. Ma ci rinunci, lei sa che non li avrà mai più e si consoli con l'almanacco di oggi che fa gli auguri a chi? Portiamo la bellezza nelle case, nei padiglioni auricolari dei nostri radioascoltatori. Era il 20 settembre del 1934. Nacque? Fate voi i vostri calcoli, Sofia Loren! Grandissima attrice italiana. La bellezza italiana nel mondo! Più della pizza! Esatto! Più del mandolino! Esatto! Più della rucola. Anche, esatto. Sofia Loren, auguri. Cara Sofia, passa a trovarci quando vuoi. Esatto. E cogliamo l'occasione, sì, anche per ricordare Mia Martini. La grande Mia Martini, morta, ahimè, deceduta nel 95, ma nata nel 1947, il 20 settembre. Io le rispondo con un paio di fratelli gemelli, musicisti americani nelle fila degli Styx. Mi ha sempre inquietato questo nome, gli Styx. Nascevano il 20 settembre del 1948 i mitici gemelli Panozzo, Chuck e John Panozzo. Sembrano usciti dalla storia del rock demenziale, invece. E invece è tutto vero, è tutto reale. Erano i musicisti degli Styx. Ma attenzione, colpo di scena. Abbiamo appena ricordato la nascita di Mia Martini. Nasceva lo stesso giorno la sorella Loredana Bertè, nel 1950. Lo stesso giorno, ma tu pensa alle coincidenze. Chiudiamo sempre in bellezza con un'attrice italiana Bella e brava, messa male. Nel senso di dark, un po', sì. Veste un po' dark. Sì, nasceva nel 1975, il 20 di settembre. Auguri ad Asia Argento, attrice, forse anche regista, sicuramente figlia di Dario Argento, il re dell'horror italiano, dello splatter. Scusi, cosa c'entrano i platter? Dello splatter, un genere cinematografico. Esistono? I platter sono una band. No, lo splatter. Non sono l'alter ego? Lo squartamento, sangue, spruzzi. Pensavo a un gruppo chiamato splatter. No, quelli sono i platter. Ci rifletto sopra un attimo. Ci rifletta, via. Uai! Roseanne, Roseanne, never thought that a girl like you could. Toto e i loro arrangiamenti pomposi. Cioè, a loro non basta un tracu tracu, ci vuole una scalata di archi e trombe. Rosanna, pane, burro, rock and roll. Rosanna, come quasi, quasi come il nome della nostra grafica di fiducia, anche lei come il nostro stegista impagabile, impagata, la bella e brava Rossana che ha costruito la patente davvero rocker, i ringraziamenti ufficiali, visto che resta impagata, no? Almeno i saluti glieli facciamo. È lei che ha costruito la patente davvero rocker, che è quasi in stampa, è quasi pronta, è quasi vera. A proposito, un appello a Francesca via SMS. Se domenica non viene alla festa di pane, burro, rock... Guardate che è domenica prossima, non domenica che vi presentate domenica questa. Alla festa di pane, burro, rock and roll, l'Ariele ti toglie la patente da vera rocker e ti dà quella di lullona. Prepareremo anche la patente davvero lullone, perché no? Marco ha un'idea orrenda di chiedere a Frick se può tradurre questa canzone dei Toto. Guarda Marco, fortuna che non sta sentendo, è meglio che non senta. Traduzioni è un tasto da non toccare troppo, Marco. Giochiamocela con calma, ok? Mi ricollego invece sempre alla patente davvero rocker, Emiliano da Firenze, visto che mi hanno decurtato 3 punti dell'altra patente. Posso averli su quella da rocker? Maledetta striscia continua. Sì, assegnateli pure, dai, in autocertificazione. Mi ricollego velocemente ai compleanni che abbiamo appena fatto per salutare anche e finalmente ritrovare questa aurea di radio provinciale, provincialotta, come piace a noi di pane, burro, rock and roll, salutando Enrico dei Relè, perché è il compleanno della sua mamma. Che teneri quando fate gli auguri alle vostre mamme. E anche a Matteo da Monza, che dice: non sono famoso, però è il mio compleanno, potete fare gli auguri a un vero rocker. Matteo, è già cosa fatta, guardalo qui che arriva con la sua 6 corde, Mr. Bob Dylan. Anche questa possiamo tradurla, eh? Knocking on Heaven's Door, l'hanno fatta pure Guns N' Roses, non vedo perché non possiamo farla noi di pane, burro, rock and roll. 8 e 19 minuti primi, qui a Rock FM va tutto bene. Mama, take this banjo from me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my gun in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Da oggi il rock lo ascolti su una sola radio. Oh, retrogradi! Da oggi pane, burro e rock and roll si ascolta da 2 radio. Sintonizzati su radiorockfm.com e troverai tutto l'archivio

a pochi minuti dall'inizio dell'esibizione, un blackout, un'interruzione nella corrente, rese impossibile l'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura elettrica. Dopo 2 ore di attesa, anche i fan più accaniti iniziarono pian piano ad abbandonare il Vigorelli desolatamente al buio. Fu questo a bloccare i Led Zeppelin nel 71? Ma chissà, vedremo. Ipotesi B, e cioè soluzione seconda. L'esibizione dei Led Zeppelin venne interrotta a causa del lancio di fumogeni da parte della polizia, che cercò, aperte le virgolette, in maniera poco ortodossa, come raccontarono le cronache dalle colonne dei giornali a quel tempo, la polizia cercò di fermare la protesta di una frangia di pubblico che contestava pesantemente il prezzo alto del biglietto. Fu questo a fermare i Led Zeppelin nel 71? Ma vedremo. Ipotesi terza e finale. Poche ore prima dell'inizio del concerto, gli Zeppelin furono accompagnati a cena in un prestigioso ristorante milanese, di cui tacciamo il nome ovviamente, dove Jimmy Page scoprì di essere un grandissimo ammiratore, un fan incontenibile della pasta asciutta, ingurgitandone talmente tanta da dover sospendere il concerto nel corso della terza canzone, terza messa in scaletta, a causa tutto questo di una forte indigestione. Fu forse la pasta asciutta a fermare i Led Zeppelin? Tutte e tre sono ipotesi inquietanti. Ma la soluzione? È una sola, noi ve la diamo tra poco, e cioè diremo l'esatta risposta a dopo. Tantaradam.